Nasciamo nel 1922, per opera del mio bisnonno, Fioravanti Rapanelli, e ad oggi diciamo che siamo tra i primi quattro produttori nella nostra fascia di mercato, quindi siamo tra le prime quattro aziende nel mondo che producono tecnologie olearie di fascia alta. Ho visto che avete macchine ecologiche di prima generazione, di seconda generazione. Che cammino è questo? In che senso ecologiche? Chiaramente con diciamo, con il termine ecologico indichiamo il minor di utilizzo di acqua nel processo dell'estrazione d'oliva, dell'estrazione dell'olio. Infatti per facilitare l'estrazione dell'olio dalle olive viene aggiunta nella fase di centrifugazione dell'acqua di processo. Diminuire l'utilizzo di questa acqua chiaramente riduce i problemi di smaltimento, rende il processo più facile e permette di ottenere anche un prodotto di qualità maggiore perché l'olio non viene lavato. Quindi anche la qualità ne viene migliorata? Assolutamente sì, poiché diciamo che i polifenoli, che sono gli antiossidanti naturali presenti nell'olio d'oliva, sono idrosolubili e quindi maggiore è l'acqua che introduciamo nel processo, maggiore sarà per l'appunto il numero di antiossidanti che andremo a perdere nel nostro prodotto finale. Quindi un olio meno lavato, quindi meno a contatto con l'acqua, è un olio più buono, più sano e soprattutto con delle caratteristiche generali assolutamente migliori. Le aziende che producono olio, che sono moltissime in Italia, la concorrenza è spietata, tendono a rinnovare i macchinari, li tengono per troppi anni, c'è innovazione nel settore? Allora, diciamo che alcune zone dell'Italia, soprattutto quelle dove diciamo, l'olio è ancora un prodotto povero, ossia un prezzo unitario molto basso, tende a non rinnovare se non in presenza di aiuti e contributi statali, comunitari, regionali. Questo chiaramente non succede in quei mercati dove c'è un maggiore valore aggiunto, quindi parliamo di Toscana, parliamo di oli umbri, parliamo di oli del Garda, adesso anche sia della zona del versante bresciano che del versante diciamo, dopo Verona, dove un olio soprattutto venduto all'estero con margini assolutamente maggiori mette in condizione chiaramente i produttori di poter investire nel processo e quindi di applicare innovazioni continue agli impianti. Sì. Il consumatore come può accorgersi della differenza? Deve guardare il prezzo, sa che il prodotto più caro è quello più buono oppure si può orientare anche con qualche altro modo? Allora, diciamo che ad oggi il mercato dell'olio è un mercato molto grande, c'è di tutto un po', l'informazione è poca, però il consumatore è un consumatore sempre più attento. Cosa che non succedeva anni fa, ora si fa distinzione, il consumatore è in grado di distinguere un olio di oliva da un olio extravergine di oliva, da un olio di prima spremitura, diciamo, da un olio toscano, un olio più saporito, a un olio del Garda, un olio magari più profumato, più delicato. Diciamo che il processo che è stato fatto, che si è avuto nel mercato del vino, piano piano sta introducendo il consumatore anche una maggior consapevolezza nel mercato dell'olio e penso che una grossa spinta proprio al mercato dell'olio e quindi anche alla cultura del prodotto sia dovuta anche alla rilevanza portata per l'appunto dal settore vitivinicolo e dei vini di qualità.